Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno e buona domenica a quanti ci ascoltano. Con queste note del terzo uomo iniziamo l'incontro di oggi, incontro con Giuseppe Bernoni. Ecco, prima di spiegare chi è Giuseppe Bernoni, perché Giuseppe Bernoni ha scelto questa musica? Cosa le ricorda? Beh, la mia gioventù. La sua gioventù, perché è una musica degli anni 50. Esattamente. E quindi non diciamo l'età, lei si è laureato in cattolica. Nel 1960. 1960. In economia e commercio, e ha fatto il dottore commercialista. E lo abbiamo già presentato chi è Giuseppe Bernoni, è uno dei più antichi, è uno dei più noti dottori commercialisti italiani, è stato anche presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti. Come mai ha scelto questa professione? L'ho sempre avuto nel sangue. Io ho deciso di fare la università proprio in funzione della mia passione per fare realizzarmi nell'attività di libero professionista, dottore commercialista. Ecco, cosa vuol dire fare il dottore commercialista? Vuol dire dedicarsi molto con impegno, studiare, lavorare e creare una struttura per poter dare un'assistenza la più ampia possibile alle imprese che richiedono assistenza e consulenza. Quindi è iniziato negli anni 60. Fatto la pratica, eccetera, mi sono iscritto nel 1961, perché ho cominciato a fare un po' di pratica prima e ho fatto un po' di lavoro già prima di essere iscritto, lavoro di praticante. Quindi si può dire festeggiamo i 50 anni di professione. Sì. Infatti lei ha detto antico, sicuramente come studio siamo uno dei più antichi. Uno dei primi studi associati. Bravo, sì, perché la mia, diciamo, il mio sogno è sempre stato quello di creare una struttura associativa. Ho sempre pensato che, visto anche quello che accadeva all'esterno d'Italia, che dovevamo organizzarci per svolgere un'attività che potesse dare una prestazione più ampia, quasi a 360 gradi, per fornire alle imprese, che nel frattempo sono cambiate anche le imprese, cambiato il mercato, potessero questa attività essere adeguata a queste esigenze del mercato e delle imprese. Quindi non solo per far lavorare anche gli altri dottori commercialisti, non solo per fare un'attività che non fosse solo improprio, ma per allargare proprio lo spettro delle competenze dello studio. Sì, sì, e anche per svolgere un'attività in team, perché la gestione di uno studio associato è la gestione di un patrimonio comune di esperienze, di conoscenze, di clientela. Quante persone fanno parte oggi di questo studio? Oggi siamo 87-88. È uno dei più grandi in Italia. Sì, sì. Ce ne sono anche di più grandi. Comunque è uno già che supera la media. Ecco, in questo momento il dottore commercialista ha certamente un impegno importante appunto a fianco delle imprese, a fianco delle persone. Come è cambiata la professione? Secondo lei il giovane che adesso entra nella professione, cosa trova di diverso rispetto a 50 anni fa? Beh, 50 anni fa c'era un mercato diverso e diciamo che il giovane poteva ancora partire da zero e via via crearsi una clientela. Oggi è diverso, oggi è molto difficile che possa partire da zero come ho fatto io a suo tempo senza un cliente e riuscire a creare una struttura. Deve lavorare molto, deve impegnarsi. Oggi è molto più è meno difficile, non potrei dire più facile, è meno difficile che i giovani si incontrino, si piacciano, nel senso che possono andare d'accordo, integrano le loro conoscenze e esperienze e creano studi associati. Svolgono, in altre parole, una funzione in team. Oggi è il team che conta, a mio modo di vedere. Ci sono ancora, con tutto rispetto, delle boutique, piccoli studi, specialisti. Ma il cambiamento del mercato necessariamente ti porta verso questa nuova dimensione. Ecco, ma nel suo studio possono entrare dei giovani, entrano anche noi dei giovani. Noi li cerchiamo. Come li cercate? Quali requisiti deve avere un giovane per cercare di fare carriera in questa professione? Innanzitutto sono due le cose portanti, diciamo. La prima è deve aver voglia di lavorare. E questo è fondamentale, se no è meglio che faccia un altro lavoro. Questo dappertutto. Questo dappertutto, ma ci sono lavori che ti permettono anche di lavorare in modo più tranquillo. Deve avere molta voglia di lavorare e di realizzarsi. E la seconda questione, deve avere quel minimo di attitudine, perché se hai l'attitudine riesci, se riesci ti piace e ti diverti facendo il lavoro. Se non hai l'attitudine è molto più pesante affrontare tutte le difficoltà di un lavoro come il nostro. Ma le università adesso, in questo periodo, preparano i giovani al mondo delle professioni? Sì, ma non sufficiente. Le università continuano a migliorare anche per gli stimoli che associazioni imprenditoriali danno loro, ma non sono ancora mature, al grado di maturazione giusto per poter sfornare dei giovani dotati di quella cultura professionale e quella cultura imprenditoriale necessaria per fare questo lavoro, perché quello che capita da noi, l'esasperato individualismo, c'è anche nei piccoli imprenditori. Ecco, quindi un giovane deve o cercare di mettersi in team con altri giovani oppure sì, cercare di entrare in uno studio già avviato. Sì. Ma quali possono essere i requisiti di fondo per questa professione? Una grande passione? Ma certo, se non c'è la passione inizialmente non guadagni molto, quindi inizialmente. Poi guadagni anche molto se hai le caratteristiche che abbiamo detto, voglia di lavorare, quindi un'attitudine che ti crea passione e un coinvolgimento tale per cui lavori con scioltezza, non è pesante il lavoro. Però ci vuole uno scenario favorevole e di questo parleremo nella seconda parte. Per adesso ci fermiamo qui con Giuseppe Bernoni, lasciamo la linea al traffico. Incontri. Ancora con le note del terzo uomo riprendiamo il nostro incontro con Giuseppe Bernoni, dottore commercialista, titolare di uno degli studi più affermati di dottori commercialisti di Milano. È stato anche per anni, abbiamo detto, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e anche con un impegno anche internazionale, dottor Bernoni. Sì, sì, oltre che presidente dell'Ordine di Milano, sono stato vice e poi presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e vicepresidente anche della FE, la Fédération des Experts Comptables, con sede a Bruxelles. Che è l'organismo internazionale che raggruppa tutti i paesi di Europa, fuori anche quelli non inclusi nella UE. Perché anche gli altri paesi hanno i dottori commercialisti. Non si chiamano dottori commercialisti, sono expert comptable, sono chartered accountant, ma grosso modo fanno lo stesso lavoro, anche se c'è una notevole difficoltà, differenza tra le varie qualificazioni. Per esempio in Italia c'è una cultura molto più vasta, infatti i professionisti italiani, ho avuto modo di constatarlo, sono molto più preparati e competenti della media europea. Anche perché forse la normativa italiana è più complessa. Richiede... E ti costringe a studiare tanto in tutti i campi, societario, tributario, finanziario. Ma i professionisti italiani, come i piccoli imprenditori italiani, hanno qualche carenza, e la carenza dei professionisti italiani è quello di essere troppo individualisti, come gli imprenditori che dovrebbero fare rete, dovrebbero fare joint venture, dovrebbero fare fusione, integrazione, ma invece tutti rimangono nel loro guscio e sì, incominciano gradualmente a buttarsi, ma ci vorrebbe più coraggio. Ecco, anche perché si ha l'immagine del dottore commercialista come dell'esperto fiscale, di colui che sa appunto fare un po' l'avvocato, sa guidare attraverso la giungla un po' delle leggi, delle normative per aiutare a pagare forse meno tasse, o comunque le tasse dovute, senza evadere il fisco, ma comunque cercando di prendere dei benefici anche dalle leggi in vigore. Però ecco, una visione più aperta, più da consulente aziendale, stenta ad affermarsi. Sì, noi per esempio, avendo la missione di svolgere un lavoro di consulenza a 360 gradi, o perlomeno molto ampio, copriamo anche tutta la parte, non solo quella tradizionale, ma anche la parte relativa alla fiscalità internazionale, al finance, al merger acquisition, recovery organization, cioè la ricostruzione dei debiti e il salvataggio di imprese. E questo è tutto un campo che è parallelo al discorso fiscale, dove il discorso fiscale entra da tutte le parti, perché ovviamente qualsiasi operazione che fai, un'operazione straordinaria, un'operazione anche la più banale, coinvolge il problema fiscale. Ecco, ma sotto questa prospettiva le imprese italiane qualche svantaggio rispetto alle imprese di altri paesi ce l'hanno, forse solo per la complessità del sistema italiano? Sì, in Italia è molto complesso il sistema tributario. Ogni volta che si tende a, diciamo, ridurre il numero di leggi, si fa una nuova legge, ma si devono introdurre delle nuove lacci e lacciuoli, come diceva Carli. E quindi è molto difficile riuscire, finora non si è ancora riusciti. C'è una convinzione anche delle autorità legislative che si deve sempre più semplificare, e in passato hanno mostrato una buona volontà. Noi nell'osservatorio fiscale della Camera di Commercio, dove io ho presieduto e sono stato vicepresidente per tanti anni, abbiamo fatto un ottimo lavoro nei confronti, siamo andati anche a Roma per spiegare le necessità di ridurre il numero delle leggi, di semplificarle per renderle più facilmente comprensibili, perché molte volte la non conoscenza della norma porta anche a non rispettarla. Però ovviamente ci sono le esigenze di bilancio. Ogni esigenza di bilancio ti crea una nuova legge. La nuova legge comporta vincoli, oneri e problemi. Sotto una certa prospettiva comporta anche un maggior lavoro per i dottori commercialisti. Sì, sì. Non sempre però la clientela si rende conto delle nostre difficoltà, dei nostri problemi. Ce li gira, dice, beh, adesso ci pensi lei, ma molte volte non è facile risolvere certi casi, perché hai la normativa italiana, hai legislativa, le circolari, le risoluzioni, gli interpelli, poi hai anche la normativa europea, le direttive, poi c'è la Corte di Giustizia che scopre che non era l'interpretazione giusta, poi hai la Corte di Cassazione che poi alcune volte devi andare alle sezioni unite per avere giustizia, per avere una precisa indicazione in ordine all'interpretazione giuridica di una norma. Quindi non è facile. Ma è vero il fatto che in Italia una persona, un'azienda deve essere lui a dimostrare di non aver evaso il fisco e non il fisco che deve dimostrare che c'è stata qualche irregolarità? Beh, adesso questo è un discorso così generale. Ci sono dei parametri, per esempio una grande battaglia che abbiamo fatto come Camera di Commercio Osservatorio Fiscale è stato quello di evitare che i parametri degli studi di settore diventassero redditi catastali, per cui se tu eri in quella nicchia dovevi sicuramente guadagnare quella cifra. Noi abbiamo insistito e finalmente la cultura tributaria ha accettato, e il legislatore pure, che fossero in dati elementi indicativi ai fini di un eventuale controllo. Certo. Ma non fossero dati catastali che devi assolutamente accettarli. La stessa cosa con il redditometro, che oggi sta cambiando. c'è un nuovo redditometro e sono strumenti questi due molto utili ai fini di individuare evasori. Ecco, io vorrei passare anche a Giuseppe Bernoni, non solo commercialista ma anche milanese, uomo impegnato nella vita sociale. Lei è stato uno dei fondatori di Vidas. Sì, insieme a Falk e tanti altri. Oggi abbiamo un presidente del Vidas che è una donna favolosa, la Giovanna Cavazzoni, che si dedica a corpo e anima. Ecco, spieghiamo che cos'è Vidas. Beh, si dedica alla cura dei malati terminali. Quindi è un'organizzazione non profit. Ah, sicuramente sì. Che riunisce appunto, oltre che a personalità dell'industria, dell'economia, anche una serie di professioni, di professionisti che sì, però vengono sì, peraltro pagati da questa associazione per svolgere un'assistenza sì, ai malati terminali. Sì. Che è un'associazione che, quando è nata, come è cresciuta in questi 28 anni? 28 anni fa. E ha curato, ha portato alla sua finale, perché sono malati terminali, certo, quindi hanno una fine ben precisa, anche se qualche volta capita che tra questi c'è chi vive 3, 4, 5 anni, ma questo è un'eccezione, la norma è che purtroppo oltre che un servizio domiciliare come è stato realizzato all'inizio 5 anni fa abbiamo creato una casa ospite per coloro che, sembra strano, ma che non hanno nessuno e non sanno dove andare a morire. E per gli anziani può essere purtroppo anche una realtà quella di trovare positivamente una possibilità di accompagnamento in questi momenti che sono certamente più difficili e certamente molto complessi. Certo. Quindi un impegno suo anche in questa prospettiva, così come in altre attività. Lei è presente anche per esempio all'Università Cattolica. Sì, sono da tanti anni presidente del Collegio dei Revisori dell'Università Cattolica, ma questo è una cosa più professionale. Professionale, ma è anche qualcosa che mi tocca dal di dentro, perché io quando ero ragazzino che avevo finito l'istituto dovevo iniziare a lavorare, ma se non ci fosse stata la Cattolica con padre Gemelli che aveva istituito un corso serale avrei avuto difficoltà proseguire negli studi. Invece, potendo lavorare in banca come ho fatto e studiando la sera, frequentando, sono riuscito in 4 anni e qualche mese a chiudere insieme a tanti altri giovani pieni di buona volontà e iniziare la professione. Ecco, infatti in quegli anni il corso serale di economia e commercio dell'Università Cattolica era uno dei pochi che c'erano in Italia che permettevano di seguire l'università in maniera piena. Ed era anche frequentato da tante persone. Oggi un po' meno perché è cambiato il mondo, i giovani hanno meno voglia di lavorare, hanno molte più distrazioni, cosa che noi non avevamo. È cambiato il mondo, com'è cambiato secondo lei negli ultimi 50 anni? Beh, bisogna essere ottimista, cambia come lo vogliamo noi contribuiamo a cambiarlo e molte volte dobbiamo accettarlo così com'è, ma dobbiamo fare il possibile per migliorarlo per quel che possiamo fare. Ma siamo ancora padroni del nostro futuro? Beh, in termini relativi sì, non in termini assoluti. In termini relativi. Beh, certo. Ecco, però se lei dovesse consigliare a un giovane, non solo a un giovane che vuole avviarsi alla professione di dottore commercialista, ma a un giovane che sta compiendo i suoi studi universitari, se dovesse consigliare qualcosa, consiglierebbe, che so, di andare all'estero? Ah, certamente. Innanzitutto io consiglierei di incominciare a lavorare da giovane. Presto, prestissimo, durante le vacanze andare a fare qualsiasi lavoro, anche il cameriere, ma per imparare a capire cos'è il lavoro. Oggi vengono in studio, io ho fatto l'università, grandi cose, ma non sanno niente, non sanno cos'è un lavoro, sono le prime armi e certo devono imparare. Invece bisognerebbe proprio da giovani, come avviene in certe nazioni, in Italia non c'è questa cultura, iniziare a lavorare prestissimo. Prestissimo. Qualsiasi lavoro, non ha importanza, anche se non ti piace, è un lavoro poco dignitoso, nel senso che non sia, sia un lavoro anche... E poi fare quello che ti piace, una volta che hai capito come gira il lavoro, fare lavoro nei limiti in cui lo puoi trovare. Ci sono tanti lavori anche di tipo alla persona, servizi alla persona, certo, che non trovi più personale, eppure sono lavori che sono richiesti. Sì, indubbiamente in questo ci sono molti immigrati che vengono appunto per coprire dei posti che non riescono ad essere coperti dal lavoro italiano. In questo senso però, diciamo, un giovane oggi ha molte prospettive aperte. Moltissime, moltissime. Quindi basterebbe, per incoraggiare questi giovani, cosa si potrebbe dire loro? Primo ho detto lavorare presto. Quando finiscono l'università, c'è un periodo di, o l'istituto, andare subito a lavorare. Se possono andare all'estero, imparare una lingua o due... E poi tornare in Italia, certo, comunque. Poi tornare in Italia, vengono con un punto di merito. Oggi, per esempio, trovare una contabile, dico una contabile finita, che conosca bene la lingua inglese, è merce rara. È difficile. Le sembrerà strano, ma è merce rara. Ma allora dobbiamo avere fiducia in questo nostro paese, questa nostra Italia. Beh, certamente sì. Che secondo lei, che appunto ha avuto anche rapporti internazionali, quali caratteri sono quelli vincenti che possono aiutare l'Italia a superare questa preoccupazione del declino che molto spesso viene avanti, viene presentata? Beh, il declino, anche perché noi l'accettiamo passivamente, bisogna reagire al declino. Io lo dico sempre in studio: noi arginiamo il declino e la crisi lavorando meglio, non di più. Poi in molti casi ci vorrebbe anche lavorare di più. Vabbè. Ma noi, già che lavoriamo un numero di ore sufficientemente ampio, direi lavorare meglio. Lavorare meglio vuol dire gestire meglio se stessi, gestire meglio i clienti, gestire meglio i collaboratori, gestire meglio i manager, fare meglio quello che abbiamo sempre fatto. Perché si può sempre fare meglio. Non c'è limite alla capacità dell'essere umano di fare meglio, e la storia lo dimostra. Con questo messaggio, in fondo con questo augurio, ringraziamo Giuseppe Bernoni di essere stato con noi questa mattina. Ancora buona domenica ai nostri ascoltatori. Ringrazio Filippo Reggi in regia, Anita Panizza in redazione. Ricordo a quanti ci hanno seguito e che vogliono seguirci che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere ascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie a Giuseppe Bernoni, grazie. Grazie a lei.